Italia in controluce. È pomeriggio di Radio 24, questa è Italia in controluce, il programma che indaga sulla cronaca, la politica, il costume e lo spettacolo italiano. Due edizioni quotidiane raccontate da Daniele Biacchessi. Roma, Piazza San Giovanni, 15 ottobre. Un gruppo organizzato di 800 autonomi contro 300.000 persone pacifiche che manifestano in piazza la loro critica politica. Sono forse tornati gli anni 70, il reportage di Cristina Carpinelli. Sabato 15 ottobre, è mattina. Gli indignati, così hanno deciso di chiamarsi, escono di casa a migliaia e chi in un modo, chi in un altro, raggiungono Roma. Nelle stesse ore, in varie parti del mondo, succede lo stesso. Ci sono i ragazzi, quelli a cui la crisi ha mangiato il futuro, le mamme di quei ragazzi e tanti altri, ognuno con la sua storia. Disoccupati, mai occupati, contratti a termine in una vita a singhiozzo. Non era una festa, ma la voglia di farsi sentire, urlare la propria indignazione senza fare disastri. Questo lo avevano ripetuto tutti, i COBAS, quelli della CGIL, quelli dei centri sociali, quelli del movimento studentesco. Però che l'aria si stesse sporcando lo avevamo capito tutti, bastava andarsi a leggere quei post su alcuni blog. Forse si sperava in poca roba, invece sabato 15 ottobre è andata in scena la peggiore fotografia e da qualsiasi parte la prendi, sempre brutta resta. Ma il cielo è sempre più. Ma partiamo dall'inizio. Sono circa le 13, la manifestazione che doveva cominciare attorno alle 14 comincia a muoversi in diverse parti della capitale. Alle 14 il movimento è già un fiume inarrestabile di gente. Rino Gaetano, De Gregori, Bandiere della Pace, facce vecchie e facce nuove, ma tutti a viso scoperto e sereno. Alle 15, in via Cavour, un centinaio di ragazzi, viso coperto, bastoni, bombe carta e fumogeni, iniziano a bruciare bandiere e cassonetti, allontanano e picchiano chi li contesta. Alessandra Schepisi è la nostra giornalista che per strada si trova e racconta così. Tante famiglie, pensionati, anche bambini, musica e slogan pacifisti, il tutto però in una Roma blindata con varchi ovunque, con uno spiegamento di forze senza precedenti. Un gruppo di ragazzi incappucciati, come dicevo, hanno cominciato a lanciare fumogeni, poi sassi alle vetrine, ha dato alle fiamme tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, nessuna risposta per ora dalle forze. In via Cavour viene preso d'assalto un supermercato e due banche, poi in via Labicana vengono prese d'assalto l'ex agenzia delle entrate e una filiale della Banca Popolare del Lazio all'incrocio con via Merulana. Avanzano e aumentano di numero i violenti, entrano e distruggono un'agenzia del lavoro interinale al Colosseo. Una manifestante scossa da tanta violenza e devastazione userà queste parole. Sotto qualche imponente di turno, o mi mettono sotto i violenti di turno, c'è sempre qualcuno che mi mette sotto, capito? Non è che quei violenti di turno sono meglio del potente di turno, tanto sono riconoscibili pure senza carte. Alla fine si conteranno un centinaio di feriti, 5 ore di battaglia urbana con le forze dell'ordine prese d'assalto da una pioggia di sassi e sanpietrini lanciati da circa 500 incappucciati. Sono gli stessi che si sono portati dietro bombe carta. Un paio di carabinieri si salvano per un pelo dal rogo del loro furgone. Scontri anche in piazza Tuscolo, via Magna Grecia e via Etruria. Dalle finestre dei palazzi i cittadini, che prima avevano applaudito gli indignati pacifisti, ora lanciano oggetti per fermare i violenti. Le cariche e gli scontri finiscono a piazza San Giovanni attorno alle 20. Gli ultimi scontri con barricate di auto e cassonetti incendiati in via Merulana vanno avanti fino a tarda sera. La gente arrivata a San Giovanni è spaventata e arrabbiata. Si vede qualcuno piangere davanti alla basilica. Un gruppo di persone normali si trova stretto tra i manifestanti violenti e le cariche della polizia e dei carabinieri. Vittorio Agnoletto ci racconta così. Ci sono stati diversi momenti dove non solo tutto il corteo li ha attaccati verbalmente, cercati di mandare via, cercati di scacciare. Ci sono state due situazioni dove addirittura i COBAS sono entrati in conflitto proprio alle mani con questi gruppi cercando di mandarli via, di allontanarli. C'è un manifestante che ha cercato di bloccare una bomba carta che è stata lanciata contro un pompiero e ci ha rimesso lui due dita. La domanda che rimane è un'altra: com'è possibile che in una città con migliaia di poliziotti in un paese con due servizi segreti e diversi corpi di polizia, centinaia di persone con caschi, bastoni e bombe carta possa girare tranquillamente per Roma, arrivare nel centro e arrivare al punto di incontro di una grande manifestazione pacifica. Seconda questione, non è che un movimento può diventare un corpo militare per cercare di respingere lui questi violenti. Siamo un movimento che rappresenta la gente precaria, la gente che non trova lavoro, che chiede una politica economica diversa, che pensa che la soluzione non sia tagliare i servizi sociali e dare soldi ai banchieri come proposta dalla Banca Centrale Europea. Per portare queste ragioni la violenza non solo non serve, ma è assolutamente dannosa. Tutta questa gente non ha nessun motivo di ricorrere alla violenza, siamo stati chiari fin dall'inizio su questo, ma bloccare i gruppi violenti che arrivano deve farlo chi ha gli strumenti informativi. Ma è possibile che nell'era digitale possano comunicare assolutamente per la rete e questo si viene a sapere solo il giorno dopo sui giornali? Dottor Agnoletto, cosa è cambiato rispetto a Genova? Posso dirle invece che cosa non è cambiato? Una cosa non è cambiata, che a dirigere l'ordine pubblico e che ai vertici della polizia e dei servizi segreti ci sono gli stessi personaggi che hanno gestito l'ordine pubblico a Genova, ci sono le stesse figure che sono state condannate in appello ai processi di Genova. Se siamo fermi, non ha senso andare avanti, continuiamo a coprirli, li stiamo coprendo. La forza di indignarsi resiste dunque e così i manifestanti cominciano a gridare vergogna, fascisti, andatevene ai Black Bloc, mentre si applaude alle forze dell'ordine. Nei giorni successivi saranno calcolati i danni per un valore approssimativo di 2,6 milioni di euro. È stata l'ennesima prova che il movimento non può essere così aperto, ci dice Gianni Paoletti della CGIL, già anima del Genova Social Forum. La prima idea che mi sono fatto è che non mi sembra che ci sia più la possibilità di dire che c'è un movimento che sta tutto quanto assieme, che contiene tutto. Questo mi sembra che non sia più possibile, anche se sia un peccato, però questo è un dato di fatto, perché c'è stata un'intenzione esplicita di spaccare, di costringere tutti a scegliere. Questione che ovviamente va discussa, c'è da discutere, vedere in che modo si deve affrontare questa cosa. Però è 10 anni che se ne discute a questo punto. Cioè... Sì, ma sono 10 anni che si discute, non si è trovata una soluzione. Non tanto per fare, cioè, utilizzare questi momenti di violenza, così come forma di propaganda e di aggregazione politica. Il sabato a Roma la cosa è riuscita perfettamente a loro. Non si può cominciare proprio dalle regole base, diciamo, del rispetto della legge, per cui uno vede fare spaccare un supermercato e lo denuncia? Non so se farei una denuncia o cose di questo genere, sono certo che non servirebbe a nulla. Questi movimenti qui non sono preoccupati della repressione poliziesca, finché sono tanti, o del fatto che c'è qualche eroe che finisce in galera e diventa per se stesso un eroe. Il problema che ha tenuto a freno queste cose a partire da Genova fino ad oggi è stato puramente e semplicemente un limite politico. C'è un ostacolo politico, le scelte politiche di chi indirizzava queste cose qui, perché c'è sempre stato chi ha provato a rilanciare questo tipo di questa modalità di far politica, ma è sempre stato bloccato. Si è visto da Genova in poi, a Genova è stata chiarissima la scelta di chi mimava la violenza, quando si è accorto che la facevano per davvero, ha detto basta. Vanno isolati, dice Tommaso Bernardi, 20 anni, della Federazione degli Studenti. Sono quell'1% che dovrebbe essere isolato, perché sono loro che mandano a rotoli anche lo stesso movimento studentesco. E come si può isolarli? Innanzitutto si dovrebbe isolarli all'interno delle stesse riunioni che facciamo tra noi studenti, bisognerebbe subito sedare questi gruppi. Quindi secondo voi in qualche modo questa potrebbe essere l'inizio di una nuova era, nel senso che comunque sì, si potrebbe essere un po' più severi anche tra di voi all'interno? Sì, certo, è ora che comunque il movimento studentesco si organizzi in maniera concreta e non solo con le chiacchiere. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Torniamo domani alle 6.30 con la pillola legata ai temi di stretta attualità.